1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti nel giorno in cui si conclude la 63esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, ma decisiva, eh? Ah, non ce l'abbiamo fatta. Ci sarà la 64esima. Abbiate fede, cari ascoltatori. E allora, di che cosa parleremo oggi? L'attualità internazionale, torneremo alle 9 a parlare della situazione in Medio Oriente. Avete visto che l'esercito israeliano è entrato nella striscia di Gaza. E poi parleremo invece di percezione e sicurezza nelle nostre città. Quanto sono sicure le nostre città? Avete paura di furti, avete paura di borseggi, avete paura addirittura di reati più gravi come omicidi? Vedremo un po' di numeri per capire una fotografia dell'Italia e cercheremo di capire anche la percezione della sicurezza. Parleremo anche col sindaco di Firenze. Sapete che a Firenze alla stazione hanno messo le transenne contro chi borseggiava, aggrediva anche fisicamente in maniera molto aggressiva i turisti. Andremo a Milano, dove c'è un'associazione di commercianti che ha messo in piedi un giro di ronde, perché c'è una zona di Milano, zona centralissima peraltro, che effettivamente in alcuni scorci è diventata uno scempio, è un bivacco generale schifoso, per cui hanno fatto delle ronde per la sicurezza. È davvero questa la soluzione? Ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i giornali. È venerdì 18 luglio, i titoli sono quasi tutti sull'abbattimento, perché si parla già di abbattimento più che di un'esplosione dell'aereo in volo sull'Ucraina, il volo Amsterdam-Kuala Lumpur. Il Sole 24 Ore apre: alta tensione sui mercati, torna il rischio geopolitico. Aereo abbattuto da un missile al confine tra Ucraina e Russia, 298 morti. E allora ecco qua il Corriere della Sera: l'aereo abbattuto da un missile. Questo è ormai pare una certezza, ovviamente andranno fatte tutte le analisi. Ucraina, Boeing abbattuto dalla guerra, scrive Repubblica. Insomma, con un po' di strali alla sintassi, visto che la guerra non abbatte nessun aereo. Comunque, La Stampa: Ucraina, missile fa strage di turisti. Il Messaggero: missile contro l'aereo dei turisti. Libero: la guerra ignorata dall'Europa fa 300 morti, molti europei. E anche Il Manifesto mette il cielo sopra l'Europa. C'è chi sceglie la politica, come Il Fatto Quotidiano: 70.000 no a Renzusconi. Il Giornale invece: spiata anche Marina, le intercettazioni su Marina Berlusconi. Torna invece Ucraina, strage di guerra, l'Unità, e aereo civile abbattuto nei cieli dell'Ucraina, così su Avvenire, il titolo di prima pagina. Ma per rallegrarvi il weekend, per rendervi felici e sereni in questi due giorni, se riposate di riposo, tenete le mani ben strette sul volante se siete alla guida, cari miei ascoltatori, e se siete ancora a fare colazione, debosciate l'Italia, forza, datevi una mossa, ma comunque appoggiate caffè e tazze di liquidi bollenti, perché vi sto per leggere da Diodato Pirone quello che Il Messaggero racconta, pagina 9, riguardo alle pensioni dei dipendenti di Camera e Senato, un'analisi dei conti molto interessante. Le super pensioni pagate con mini contributi. Scrive Pirone: lunedì, o più probabilmente martedì, le presidenze di Camera e Senato annunceranno l'avvio di una trattativa coi 25 sindacati dei 2.315 dipendenti. L'obiettivo è introdurre anche nelle Camere il tetto di 240.000 euro imposto alla retribuzione di tutti i dipendenti pubblici italiani. La trattativa che però seguirà potrebbe allargarsi a una questione spinosissima e per certi versi scabrosa, e cioè la micidiale trasformazione del Parlamento in una sorta di pensionificio. Infatti il 20% per esempio delle spese totali del Senato sono per pagare le pensioni. A Montecitorio invece il 25% di tutte le uscite sono per pagare le pensioni. Incredibile. il 25% alla Camera e il 20% al Senato. Ma più si va avanti nell'articolo, più si leggono delle cifre che fanno rabbrividire. La ciliegina è questa: basta spulciare i bilanci della Camera per scoprire una verità amarissima. Non solo la spesa previdenziale è altissima, ma è completamente impazzita. Le cose stanno così, scrive il Messaggero. Alla Camera si pagano 8 euro di pensioni per ogni euro di contributi incassati. Ebbene sì, l'anno scorso 27,7 milioni di contributi incassati, 233 milioni e 200 mila euro di pensioni pagate. Il Senato non è da meno, 19,7 milioni incassati, 115,2 versati. Anche al Quirinale, altro organo costituzionale, si incassano 17,9 milioni in contributi previdenziali e se ne pagano 91. Ovviamente, indovinate un po', come scrive il Messaggero, chi paga la differenza? Chi ci mette quella differenza per coprire quel rapporto 1 a 8? Il Ministero del Tesoro. E con quali soldi il Ministero del Tesoro paga questa differenza? Coi nostri, con quelli di Peter Bescapè, che se ne va in vacanza, felice con questa notizia. Oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, eh? Dai, vai in vacanza. Prima lascia giù un 10 centesimi che c'è da saldare ancora un po' di contributi da dare e pagare per le pensioni di dipendente di Camera e Senato. E va bene, va bene. E questo tutto sul Messaggero. Le super pensioni pagate con mini contributi. Mentre una notizia che riguarderà moltissimi italiani che fanno la professione di avvocati, sia gli avvocati italiani sia quelli che per diventare avvocati scelgono la strada di diventare avogados in Spagna per poi fare la professione in Italia, sappiate che, come racconta il Sole 24 Ore con Giovanni Negri in prima pagina e poi a pagina 33 del Sole, l'italiano può diventare avvocato in Spagna. C'è la Corte di Giustizia Europea che sdogana gli avogados con un'attesa sentenza depositata ieri. La Corte Europea ha dato il via libera a chi dall'Italia si reca in Spagna per ottenere la qualifica professionale di avvocato. Per gli eurogiudici la condotta, che è contestata pesantemente dal Consiglio Nazionale Forense Italiano, non rappresenta invece una pratica abusiva. Secondo il Consiglio non può avvalersi della direttiva sullo stabilimento degli avvocati chi punta a ottenere il titolo in Spagna col solo scopo di eludere la normativa italiana sull'accesso alla professione. Si tratterebbe pertanto di un abuso del diritto di stabilimento. Oggi sono circa 3.000 i legali italiani che esercitano nel nostro paese avendo ottenuto il titolo in Spagna. No alla richiesta del Consiglio Forense, non è una pratica abusiva esercitare in Italia col titolo acquisito all'estero. L'italiano può diventare avvocato in Spagna. Questo lo leggiamo sul Sole 24 Ore. Mentre a proposito di crimine, il Secolo XIX dedica una pagina a una vicenda che, per la verità, era già uscita sui giornali. Riguarda un imprenditore che uccise un ladro anni fa. Si chiama Antonio Monella, 52 anni, e per il quale la comunità locale, siamo in provincia di Bergamo, ad Arzago d'Adda, per la precisione, chiede la grazia a Napolitano. Uccise un ladro, 10.000 firme per la grazia. Pagina 4 del Secolo, visto che noi parliamo anche di sicurezza nelle nostre città dalle 8:15, Valentina Rigano racconta 10.000 firme di cittadini, 300 di rappresentanti istituzionali politicamente trasversali raccolte e inviate al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia a un uomo che uccise nel Bergamasco con una fucilata dal balcone un ladro che gli stava rubando il SUV in cortile. Si tratta di Antonio Monella, imprenditore edile di 52 anni, per lui la condanna a 6 anni definitiva per l'omicidio, e il responso del Presidente della Repubblica, secondo il comitato organizzatore, sarebbe atteso in poche settimane. Tra l'altro, il 6 settembre nel 2006 successe questo: uccise Ervis Oksha, albanese, 19 anni, gli stava rubando il SUV parcheggiato nel cortile, sparò dal balcone, e c'è una unione rappresentativa, per esempio dal sindaco di Arzago d'Adda, Gabriele Riva, che è anche il segretario provinciale del PD, e poi vari esponenti della Lega, come il segretario della Lega Daniele Belotti, che sono al fianco di questo imprenditore. Staremo a vedere se davvero Giorgio Napolitano deciderà nelle prossime settimane come scrive il Secolo XIX. Va bene, siete pronti ad andare in ferie? Tutti sono pronti ad andare in ferie. Renzi ha detto poche ferie, il Quotidiano Nazionale fa una pagina il giorno della protesta dei parlamentari, la rivolta dei peones, poche ferie da Renzi. Lavori lui. Così dicono molti parlamentari. Il Quotidiano Nazionale con Ettore Maria Colombo è andato a intercettare un po' gli umori dopo che Renzi ha detto fate poche ferie, ci sono i decreti da approvare. Il mio capo non si chiama Renzi ma popolo italiano. Le ferie le decidono il presidente della Camera e la conferenza dei capigruppo. Sbotta per esempio un deputato del PD pugliese di lungo corso, ovviamente non ci sono mai i nomi perché non è simpatico dire io le ferie me le voglio fare, anche se non ci sarebbe nulla di male. E sta di fatto che parte la battaglia delle ferie, racconta il giorno. Col governo Letta al Parlamento restò chiuso un mese, col governo Monti 27 giorni, i 17 giorni forse prevedibili oggi, anche se l'ultima parola aspetterà i presidenti di Camera e Senato, saranno tutti garantiti? Tutti garantiti? Chi lo sa, con questo dilemma fondamentale vi lascio alla pubblicità. Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione. Vabbè, allora le 7:33 minuti, oggi Peter Bescapè si diverte, è il suo ultimo giorno di fede, dai, c'è già la di lavoro, c'è già la campanella che suona, abbiate pietà di lui. Allora, come dire, l'attualità ovviamente impone l'apertura dei giornali a parlare di questa tragedia immane che c'è stata sui cieli dell'Ucraina con un volo, il volo da Amsterdam a Kuala Lumpur della Malaysia Airlines, che è stato abbattuto. Questa ormai è la voce più insistente, nessuno parla di, è chiaro che andrà fatta tutta l'inchiesta, ma si parla davvero molto presumibilmente, visto che è una zona teatro di guerra, di un missile che ha abbattuto questo aereo. Racconta Fabrizio Dragosei a pagina 2 del Corriere della Sera, ma ovviamente ogni giornale ha la sua cronaca. Il titolo è un boato, poi l'aereo si spezza in due, rottami incendiati sparsi dappertutto in mezzo a corpi semicarbonizzati, valigie sventrate, opuscoli turistici della Malaysia. I giornalisti giunti nel pressi del villaggio di Grabovo, non lontano tra Ucraina e Russia, hanno potuto vedere quel che resta del Boeing 777 della Malaysia Airlines. A bordo 298 persone, tutte morte. E non per un guasto tecnico, ma certamente quasi perché colpito da un missile lanciato durante i violenti scontri tra truppe regolari e indipendentisti. Sul volo c'erano 154 olandesi, 27 australiani, 23 malesi, una ventina di americani, 9 britannici e non c'è scritto sui giornali, ma l'abbiamo scoperto dalle agenzie, probabilmente c'era anche un italo olandese con il figlio. E ovviamente è partita subito la raffica di accuse. Mosca dice sono stati gli ucraini, l'Ucraina dice sono stati i filorussi della zona che combattono. C'è da dire che La Stampa con Anna Zafesova, pagina 4, l'articolo più interessante riguardo a quello che potrebbe dare una svolta alle indagini. La contromossa del Cremlino, dice, colpa delle azioni militari di Kiev, ma sentite cosa racconta Anna Zafesova. C'è un'intercettazione che è già stata messa su YouTube dalla sicurezza di Kiev, dunque dall'Ucraina, in cui due persone parlano così. Porca, vabbè, qua c'è un'esclamazione non certo civile, è al 100% un aereo civile. La voce di quello che è identificato come il maggiore è sconsolata quando fa rapporto. Quanti morti, un casino, i rottami cadevano nei cortili delle case. Il suo interlocutore gli chiede speranzoso se siano state trovate armi e il maggiore risponde ma quali, tutti oggetti civili, asciugamani, carta igienica, medicinali, anche documenti di uno studente indonesiano dell'università Thompson. Sono le 17:32 di ieri, ora ucraina, e in questa telefonata il maggiore riferisce che i cosacchi del posto di blocco di Cernuchino hanno abbattuto un aereo civile. Questa intercettazione messa sul canale YouTube del servizio di sicurezza ucraino dovrebbe fungere agli occhi di Kiev da prova definitiva della colpa dei separatisti filorussi. Ma ovviamente è partita subito la guerra di bugie, accuse, controaccuse. Obama ha chiamato Putin, la Repubblica parla del gelo sceso tra i due, ma chiaramente ora ci sarà l'indagine. Lo stesso Corriere della Sera racconta che la scatola nera verrà mandata a Mosca per un'indagine oggettiva, ma quell'oggettiva è messo tra virgolette, ovviamente questa è la versione della Russia. Sta di fatto che tutti si chiedono anche: ma perché diamine un aereo debba volare, sebbene molto in alto, in questo caso da 10.000 metri, su cieli di un teatro di guerra? Se lo chiede la stampa, quella rotta dettata dal business. Luigi Grassia, a pagina 5, vietare il sorvolo dell'Ucraina avrebbe evitato i rischi, ma gravato sui costi del carburante delle compagnie. Questa è la domanda, a prescindere da dove sia partito il missile. L'aereo poteva volare su quella zona di guerra oppure no? La IATA, che federa le compagnie aeree mondiali, dice che sull'Ucraina orientale c'era una no-fly zone, ma solo al di sotto dei 7.000 metri, mentre il jet della Malaysia volava a 10.000, fuori dunque dalla portata dei piccoli missili terra-aria a spalla come gli Stinger. Si credeva che questo bastasse alla sicurezza. Ma non è stata comunque un'imprudenza non chiudere tutto lo spazio aereo? Certo, scrive la stampa, viene un dubbio. Si sa che certe compagnie aeree, per esempio, fanno pressione sui piloti affinché passino il più vicino possibile anche ai temporali, in modo da non fare deviazioni di rotta e non consumare carburante. Non sarà che le compagnie fanno anche pressioni politiche sulle istituzioni internazionali preposte alla sicurezza per non convincerle, o meglio, per convincerle a non chiudere spazi aerei grandi come quello dell'Ucraina, e quindi non costringere i loro aerei a fare deviazioni di centinaia di chilometri? Ecco, il sospetto terribile è anche questo. Il business, i troppi costi del carburante spingono a non cambiare troppo le rotte, quindi passare anche su cieli che in questo caso si sono rivelati fatali. Tra l'altro tutti raccontano anche l'annus horribilis della Malaysia Airlines, dopo che già un altro Boeing è scomparso di cui non si sa niente. Il Boeing con 239 persone a bordo, scomparso lo scorso 8 marzo a un'ora dal decollo da Kuala Lumpur in direzione Pechino. Ora questa nuova immane tragedia che riguarda soprattutto il popolo olandese, visto che sono tantissimi gli olandesi che hanno pagato il tributo di sangue, 154. L'aereo volava da Amsterdam e andava a Kuala Lumpur, immaginate, molte persone erano dirette, si dice anche a Bali. L'altra situazione di cui parleremo, internazionale, molto molto grave, è alle 9, ne parleremo, è l'attacco da terra e mare. Gaza e la striscia di Gaza piombano nel buio, ci sono nuovi morti, anche un bambino di 5 mesi, si racconta, nel primo attacco via terra che l'esercito israeliano ha lanciato questa notte nella striscia di Gaza. L'operazione viene definita da Israele senza limiti di tempo, ne parleremo alle 9. Avremo ospite Avi Pazner, ex ambasciatore israeliano in Italia, portavoce del governo israeliano in Italia. Con lui c'era anche il nostro Ugo Tramballi, per cercare di capire davvero quanta profondità abbiamo di questa guerra. Vabbè, la politica italiana c'è Renzi che è un po' arrabbiato con l'Europa. Sapete che se la prende coi burocrati, coi tecnocrati, coi mandarini, con la palude. Ora pare che abbia identificato la palude anche in Europa. Renzi e il viaggio a vuoto, bastava anche solo un SMS. Così è il titolo del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, sul retroscena di Renzi a pagina 8, arrabbiato perché è andato in Europa, non ha convinto nulla e nessuno sulla questione di Federica Mogherini. Molti in Europa non conoscono il mio metodo, dice Renzi ai suoi, non ci sono abituati, non è che io faccio una cosa a Roma e un'altra a Bruxelles, io non cambio e non cambio idea su Federica Mogherini. E l'ho detto a Van Rompuy, potevi farci risparmiare i soldi dei voli di Stato, bastava mandare un SMS. Insomma, un vertice inutile per Renzi, o meglio un pareggio, usando il gergo calcistico, un pareggio fuori casa. La sfida di Renzi sulle nomine senza accordo su Mister Pesk non indico né Mogherini né altri. Io mi fermo qui perché poi ci sarà un appendice sulla carta costa su questo, perché davvero è incredibile questo dibattito sul quale non si decide nulla. Mentre da registrare c'è un'intervista a Repubblica a Wolfgang Schäuble, che è il ministro dell'economia tedesco, il quale ad Andrea Tarquini su Repubblica dice: l'Unione Europea chiede più riforme, non meno regole, ma noi tedeschi ci fidiamo delle promesse di Roma. L'intervista è a pagina 15. Il punto centrale è questo, ripete Schäuble: noi abbiamo regole in Europa, concordate tra tutti, e nessuno può semplicemente cambiarle, sarebbe lecito solo se fatto insieme. Comunque, le riforme, l'Italia si è meritata grande rispetto, l'appoggio reciproco tra Germania e Italia ha un ruolo centrale, noi ci fidiamo delle riforme promesse da Matteo Renzi, che è il presidente del Consiglio eletto con un programma di riforme strutturali molto ambizioso, ha ottenuto uno straordinario successo alle elezioni europee. Sta di fatto che sulla riforma elettorale invece è tutto bloccato, ma non solo sulla riforma elettorale. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Ci danno credito, ci sono ottimisti in Europa, sono fiduciosi. Sì, sono ottimisti e fiduciosi, ma ti posso dire una cosa che scriviamo oggi sul Sole 24 Ore? Che sono ottimisti e fiduciosi, ma fino a un certo punto. Ah, ecco. Perché se tu sfogli il Sole 24 Ore di oggi, vedrai che hai presente Pompei? Come no? Ecco, lì l'Europa ci dà del denaro perché noi la teniamo un po' in ordine, un po' meglio possibilmente di come siamo riusciti a fare fin qui. E ieri c'è stata appunto questa visita importante da parte dell'autorità europea, anche con il nostro ministro, e ci hanno fatto un'agendina, un cronoprogramma lo chiamano educatamente, garbatamente, però la sostanza è: vogliamo vedere che voi utilizzate questi soldi. Diciamo che per indorarla un po' hanno detto: però vi daremo fondi anche il prossimo anno. Ma infatti voi sul Sole 24 Ore c'è scritto: non si può dire, guai a dirlo, ma in pratica c'è un commissariato. Però non si può dire. Questo non lo puoi dire. Diciamo, però non siamo così severi. Ci hanno detto: vi controlleremo giorno per giorno quello che spenderete. Sì, esatto. Quindi. E vediamo anche delle date e torniamo a vedere. Quindi, con la penna rossa, peraltro. No, non è proprio quando uno si fida. Infatti, non lo so. Insomma, sono poi dei dettagli, per carità. L'importante è che però tra le cose che slittano, tu parlavi prima di cose che slittano, il Jobs Act, cioè disegno di legge per la riforma complessiva delle regole sul lavoro, intanto è finito nell'ingorgo istituzionale, nell'ingorgo parlamentare, e quindi se ne parla a settembre. D'altra parte tutto non si può avere tutto non si può avere presto, e dobbiamo fare i conti con questi tempi della politica. Hai visto che però anche noi oggi diamo poi il molto rilievo alle questioni di cronaca, insomma, di cronaca internazionale, l'abbattimento dell'aereo e anche le tensioni di guerra, insomma, che tornano a spirare, con delle analisi anche collegate naturalmente alle questioni, ai risvolti, alle ricadute economiche, proprio nelle nostre prime pagine. So che già hai parlato degli avocados. Come no, è mitica questa notizia, gli avocados. Fatto arrabbiare gli avvocati italiani. Sta facendo un po' arrabbiare gli avvocati italiani. Tra l'altro noi ci azzardiamo a buttar lì che potrebbe essere un po' come una sentenza Bosman. Ti ricordi il caso Bosman che provocò appunto un terremoto nel movimento dei calciatori? E beh, noi potremmo essere periodistas, caro Alessandro, per cambiare. Perché no? Periodistas. Ma a me non dispiacerebbe diventare periodistas. Gli avvocati non mi sembrano così contenti, ma vabbè, insomma, non si può sempre accontentare tutti. Però l'importante, caro, è che non mi diventi moroso e incolpevole. No. Ecco, perché finalmente è arrivato il decreto. È innamorato? Per stabilire. No, vuol dire che non paghi. Ah, va bene. Ma no, cosa hai capito? Sei proprio già orientato sul weekend. No, moroso e incolpevole, cioè che non è colpa tua, ma proprio non hai materiale disponibilità. Finalmente è arrivato il decreto per il sostegno alla morosità incolpevole. Per adesso la dote non è eccessiva, ci sono una ventina di milioni, lo riferiamo sul Sole 24 Ore, indovina in che pagine? Norme e tributi? Ma guarda, sei bravissimo. Ah, e allora con questo io ti saluto, ti auguro un buon fine settimana. Grazie. E naturalmente traffico. Per me la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca. Grandissimo applauso. Applaudo anch'io, caro ascoltatore. Allora, c'è da dire che sulla legge elettorale il dibattito è andato avanti, c'è stato lo streaming ieri tra PD e Movimento 5 Stelle, se volete leggere il resoconto. Io personalmente, sarò io fatto male, trovo queste cose francamente di una noia mortale, ma insomma qualche passettino è stato fatto, secondo Renzi è stato fatto un buon passo, tutti i tecnicismi, le tecnicalità le trovate, doppio turno di lista eccetera, le trovate sui giornali. Renzi dice siamo divisi ormai solo da un ruscello con quelli del Movimento 5 Stelle su questa cosa. Sta di fatto che tutto pende invece da quello che viene definito da Libero il giorno del giudizio. Oggi la Corte d'Appello di Milano decide sulla sentenza caso Ruby, primo grado con condanna a Berlusconi. La domanda che si pongono tutti è: se ci fosse una condanna in appello, salterebbe il tavolo delle riforme? Stando ai rumors e agli umori di Silvio Berlusconi raccontati dai vari giornali, no. E cioè Libero, anche se mi condannano, farò le riforme con Renzi, così Paolo Emilio Russo a pagina 13, ma anche Repubblica, non mollo le riforme anche se oggi mi condannano. Sul Messaggero invece la vicenda si intreccia con il Movimento 5 Stelle perché Berlusconi dice io terrò fede al patto del Nazareno, ma se aprono a grillo salta tutto. Staremo a vedere quello che può succedere. Ci sono anche pagine di cronaca che mi interessa segnalarvi, e a cominciare dalla fiction Gomorra fa molto effetto vedere che secondo l'accusa di Napoli, secondo la procura di Napoli, per la villa usata nella fiction Gomorra, che ha avuto un tantissimo successo su Sky e ci sarà anche un sequel, una seconda serie, qualcuno ha pagato il pizzo alla camorra. Ovviamente fa molto effetto se fosse così. Per la villa di Gomorra pagato il pizzo al boss, bufera sulla fiction. Per la verità l'inchiesta è vecchia, non è la prima volta che esce sui giornali, ma sentite cosa racconta Irene De Arcangelis a pagina 19 di Repubblica. Dice il produttore cinematografico Matteo De Laurentiis al padre del boss della camorra: zi Filuccio, io sono nelle mani vostre. È intercettato. Per gli inquirenti è la frase chiave di un'inchiesta dell'antimafia in cui le vittime compaiono al fianco della criminalità organizzata, tutti nell'elenco degli indagati. Il clan accusato di estorsione, i produttori cinematografici della serie Gomorra di favoreggiamento personale. L'antimafia chiede e ottiene l'arresto per il boss e i suoi genitori. Vuole inoltre il divieto di dimora in Campania per Matteo De Laurentiis e Gianluca Arcopinto, organizzatori della Catleia, cioè la produzione. Gli arresti domiciliari per il location manager Gennaro Aquino, ma il GIP rigetta pur considerando il loro comportamento riprovevole. La procura ricorre in appello. La vicenda si sviluppa intorno al villone rosa di Parco Penniniello a Torre Annunziata, usata come casa dalla famiglia Savastano nella fiction. E quel villone di proprietà del clan Gallo, il cui boss Francesco è in carcere, è il set ideale per la fiction Gomorra. E la società Catleia, che la produce, l'affitta con regolare contratto per 30.000 euro. Tra le clausole c'è l'obbligo di acquistare i pasti per la troupe dalla sorella del boss. Ma che succede? Dopo il pagamento della prima rata, la villa viene sequestrata. Così la Catleia dovrà pagare il canone all'amministratore giudiziario. Non così per il boss in carcere, che pretende il suo affitto, nonostante l'affitto sia da pagare all'amministratore giudiziario. Anche il boss in carcere dice no, lo pagate anche a me, altrimenti finisce il cinema. Questo avrebbe utilizzato. E qui bisogna capire se ci sono stati questi pagamenti. La società di produzione smentisce, dice di essere strani ai fatti, ma certo la vicenda finisce su tutti i giornali. Anche il Fatto Quotidiano, che per primo, ricordo, circa un anno fa tirò fuori questa vicenda, racconta: favorì i clan, indagato il produttore di Gomorra. Mentre c'è una pagina sull'Unità che riguarda un sacerdote italiano che mi ha molto colpito. Il racconto è a pagina 9, a firma Roberto Rossi. Estradate quel prete aiutò i torturatori. È la vicenda di Don Franco Reverberi, che si trova in questo momento a Sorbolo, in provincia di Parma. Racconta l'unità Mario Hector Bracamonte Ortuvia, 26 settembre 76, mi hanno trasferito a Mendoza. Nei tribunali sono iniziati i maltrattamenti. Un pomeriggio mi hanno dato una ripassata dalle due. Nel momento in cui lo stavano picchiando e gli facevano asciugare il pavimento col corpo, ho visto il cappellano. Ricorda invece un'altra persona, Crocefisso Enzo Beio. Un giorno, nel luogo in cui ero detenuto, arrivò un sacerdote, mi parlò in italiano, mi domandò chi fosse il capo dell'organizzazione e dove fossero le armi. Tutto questo nel 76, e tra il 76 e l'83 in Argentina si contarono più di 30.000 desaparecidos. Molti dei torturatori e dei loro fiancheggiatori dell'epoca si rifugiano in altri paesi, alcuni sono tornati nel luogo dove erano nati. Don Franco Reverberi, secondo molte testimonianze, è il cappellano dell'esercito che partecipò agli interrogatori, ai tormenti dei prigionieri nelle carceri di Mendoza e si è rifugiato in Italia, a Sorbolo, in provincia di Parma. L'Argentina ora chiede, da tempo per la verità, ne chiede l'estradizione perché vogliono processarlo. C'è stato il no del Tribunale di Bologna, ma il Procuratore Generale di Cassazione ha espresso invece parere favorevole. Pare che possa essere più vicina questa estradizione. Sta di fatto che, secondo tutte le testimonianze, Don Franco Reverberi è colui che partecipò come cappellano alle torture durante l'Argentina dei desaparecidos. A proposito di preti, una notizia invece diversa: ha vinto la causa la badante Valentina Popescu, rumena, che ha ottenuto una eredità da 500.000 euro dal parroco che ha curato negli ultimi anni di vita. Si tratta di un parroco di Lumezzane che ha lasciato 500.000 euro appunto alla perpetua badante. C'è stata la causa ovviamente della diocesi che dice no, quei soldi spettano a noi, eccetera. La badante ha avuto ragione. Sia fatta la volontà di Don Giulio. L'eredità del parroco va alla badante. Pagina 10 del giorno, la diocesi rivendica i soldi, poi si piega però al giudizio. 500.000 euro andranno alla perpetua. E questo è il dato di fatto. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, perché questa vicenda mi ha sfiancato, mi ha veramente snervato. Un'intera pagina sulla donna che divide l'Europa, Federica Mogherini. Riuscirà a farcela a diventare ministro degli esteri europeo con tutti i problemi che ha l'Europa? Con tutti i problemi, soprattutto lì in Ucraina, dove c'è una guerra. In Europa, Europa vera, Europa piena, ci si scervella su una poltrona. Ecco, non aggiungo niente, su una poltrona. Ecco, se la carta costa non è questa, ditemi voi. Oggi una carta costa più di rabbia alla stampa. Giornale Radio.